io ti porto dove frontiera il mondo, dove la vita è sempre solo in saldo. Ed io ti porto nel cuore dell'angoscia, in quel pacciame di rabbia e di ignoranza, dove germoglia e prospera violenza. Io ti porto al centro della tela, in quell'intreccio di ipocrisia e vendetta. Le prede arrivano e il ragno è lì che aspetta. Le prede arrivano e il ragno è lì che aspetta. E io ti porto solo il ghigno stentato di una vecchia che è sirena per chi non si può vedere, ma che è puttana. Si serve del potere e Dio ti porto dove non puoi venire, davanti a uno specchio che mostra solo ciò che non si può vedere, dove riflessa e apposta può essere la vita. Ed io ti porto dove non puoi venire, davanti a uno specchio che mostra solo ciò che non si vuole vedere, dove riflessa e apposta può essere la vita. Ed io ti porto dove non vuoi venire, davanti a uno specchio che mostra solo ciò che non si vuole vedere, dove riflessa e opposta può essere la vita. Ed è natura in casa.